filo conduttore è l'attualità. All'inizio, quando ci siamo incontrati, abbiamo pensato vogliamo parlare di immigrazione, di tutte le problematiche legate all'immigrazione in sé, ai problemi di immigrazione, ai problemi della criminalità organizzata attorno all'immigrazione, tantissime cose. Poi contemporaneamente abbiamo detto vogliamo continuare a parlare di mafia in Emilia Romagna, perché c'è il processo che era ancora in corso, no, quando abbiamo cominciato a pensare. Ci siamo ritrovati come al solito sempre di stretta attualità, perché il processo è finito adesso e quindi siamo lì proprio a parlarne adesso. Ci vorrà una riflessione storica e politica su tutto quello che è stato accertato. Di immigrazione ovviamente siamo qui a parlarne in maniera molto particolare e alla fine eccoci qua, sempre politicamente scorretto. A proposito di processo, affronterete anche la sentenza Emilia. Qual è il suo punto di vista e quali sono gli appuntamenti al riguardo? Da seguire c'è un appuntamento molto importante con il magistrato del primo processo Emilia, quindi parleremo proprio del processo. Di cosa è venuto fuori? Noi siamo, come dire, poco abituati a leggere le motivazioni della sentenza, a ragionare sulle sentenze. Arriva una sentenza, condannato, ciao, è finito il problema. In realtà è lì che devi cominciare a ragionare. Purtroppo noi come paese, ma anche noi come zona, come territorio, non abbiamo mai avuto per esempio una vera riflessione politica proprio seduti lì sulla Uno Bianca. Finita l'Uno Bianca, in galera i cattivi, buonasera, basta. Ma come è successo? Perché è successo? Com'è? E vale per tutte le cose che sono successe qua. L'infiltrazione mafiosa così forte in Emilia Romagna, l'andrangheta e tutto il resto, è una cosa che richiede una riflessione enorme, un ripensamento totale di un sacco di cose. La nostra regione in parte lo ha fatto e si è dotata di strumenti che in effetti in parte funzionano. Però ora che c'è il processo, ora che certe cose sono state dette, ora non ti possono più dire che eri un visionario. Una volta era così, no? Siamo finiti tutti in una lista nera, in pratica. Noi che dicevamo che c'era la mafia in Emilia Romagna, come visionari, strani, vabbè, ma io sono un giallista, figurati, te scrivi gialli, vabbè. Adesso no, ora possiamo dire no, questi sono i fatti, questi sono i dati sui quali possiamo cominciare a ragionare. Cercheremo di farlo anche qui. A proposito di dati, noti una differenza, prendiamo il caso dell'inizio di questo programma culturale, certo, negli anni, sull'infiltrazione mafiosa, la realtà mafiosa in Italia, da ieri a oggi? Beh, allora, non una grande differenza da un certo punto di vista, perché noi abbiamo cominciato a parlare di infiltrazione mafiosa al nord, mafia al nord, che è un titolo, no? Noi, io come scrittore, ma noi come politicamente scorretto, in un periodo in cui l'infiltrazione ovviamente era già radicata, dagli anni 90, che c'è e ancora esiste un'infiltrazione, eccetera. Da quel punto di vista non è che abbiamo parlato di un argomento di cui adesso non ne parliamo più, continuiamo a fare inchieste, non storie purtroppo. Contemporaneamente però un po' di cose sono successe, intanto una presa di coscienza anche di questo territorio, che prima assolutamente non ci pensava, una presa di coscienza da parte dei ragazzi, un sacco di scambi, la presa di coscienza che la mafia non è un problema regionale, quindi non è fatti loro di quelli che stanno al sud, ma anzi problema nostro grosso, che ne siamo protagonisti anche noi, un sacco di provvedimenti, anche di leggi, no, a livello regionale, che sono serviti. Io ho visto un cambiamento, sempre comunque la stessa attualità del problema, lo stesso grande interesse fin dall'inizio da parte della gente. All'inizio noi facevamo dibattiti su questi argomenti che erano pieni di cittadini, pochi amministratori e molti cittadini. Adesso anche gli amministratori da un bel po' di tempo sono lì in prima linea a guardarci anche noi, anche i politici, però i cittadini li abbiamo sempre avuti. Dici mafia al nord, è pieno di gente che è lì a dire aspetta un attimo, dimmi cosa mi stai raccontando. Affronterete anche nel programma il caso Riace e, certo, Mimmo Lucano, qual è il punto di vista e che cosa ci aspettiamo da questi? Beh, allora il punto di vista lo vediamo, perché appunto mettiamo in scena, in campo, no, questo argomento, che comporta un sacco di cose: l'immigrazione, i problemi relativi ad una certa gestione dell'immigrazione, possibilità di gestirla in un altro modo, Mimmo Lucano è uno di quelli, reazioni a questo tipo di possibilità di gestirli così, e sappiamo quello che è successo. Cercheremo di raccontarlo soprattutto attraverso l'immaginario, questo, quindi facendo dei dibattiti che hanno a che fare con chi se ne è occupato, come dire, per la qualità proprio immaginifica, più poetica di quello che è successo. E ci chiederemo anche come mai una fiction Riace non è andata in onda. Io mi ricordo precedenti di questo genere, mi ricordo tempo fa parlavamo della fiction su Graziella Campagna, una vittima della mafia, una storia di mafia tremenda e bellissima da raccontare, che non andò in onda per un sacco di tempo perché l'allora ministro della giustizia Mastella, il suo ministero, aveva in maniera un po' confusa, se si fa le cose un po' da noi, dato un parere contrario perché c'era ancora il processo in corso. Quindi di nuovo vicende giudiziarie che non ti fanno vedere delle cose alla RAI sulle quali magari tu potresti decidere, farti un'opinione, insomma, vedere, dibattere, pensare. Cercheremo di approfondire anche questo argomento. Appuntamenti da non perdere e luoghi del festival? Oh, beh, i luoghi del festival sono soprattutto il teatro, quindi appuntamenti da non perdere sono tutte le cose che avvengono in teatro. Il teatro di Casalecchio fa cose bellissime. L'altro è la Casa della Conoscenza, centro, no, il cuore di tutto questo. Uno dei luoghi da non perdere è comunque il dibattito che facciamo attraverso le varie dirette streaming oppure attraverso i social, che comunque se ne occupano di quello che stiamo facendo, che ampliano la nostra platea.